sull'orlo del mondo di Rossella Renzi. Intero, devo contenere il silenzio, nelle mani il verso dei rapaci, che si voltano con teste da uomo. Il lamento del mendicante implora di partire, mio piccolo animale. Sei il merlo nero che mi fissa, nell'ora muta della sete. Il tuo suono, tra ghiaccio e deserto, nel piede sudicio che solca la terra, a luce di casa e di strada, l'odore. Sei magra e dannata, come una bestia senza dimora. Conserva la polvere e le note della tua terra, per finire la danza sull'orlo della piazza. Abbracciato allo scoglio, muori. Angelo nero, col cuore a metà. Il tuo albero è nudo ad ogni foglia. Ad ogni foglia si spegne la luce e la strada. Spoglia, cancella il passo. Conserverò le tue piume ordinate. Le indosserò per un volo più aperto. Piccoli sognatori, sono già in viaggio, col passo serrato. Chiudono gli occhi alle porte d'Occidente. Un odore tenue che si fa olezzo. Nel silenzio, tra godere e disprezzo, urlano a mani vuote, brutalmente. Nelle viscere. L'eco dei dissidenti, col cranio fracassato, gettato in fondo al mare, dove dormono voci e mani legate, le schegge ostinate della vita e il pensiero, l'onda infinita, che nessuno potrà contenere. Ciudad Juárez. Ho perduto tutte le mie mani. Scavando una parte tenera di terra, cercavo quelle perle che una donna indiana mi regalò in sogno. Anche gli assassini, stanotte, restano impuniti. L'ora del cielo è di sale e memoria. La strada riceve le braccia ad ogni metro. Fissiamo il tramonto, le stelle tiepide del pianto. La polizia verrà stanotte, ci porterà alle sbarre, ci farà vomitare la nostra calda disperazione. Non devi sapere se è urgente misuri il tempo col passo del ragno, se ancora duri dopo il massacro. Non lo devi sapere. Zitta, madre stolta, la bocca serrata con fili di rame, l'ombra stravolta. Zitta, che l'acqua non è più pura, che il sogno non divora. La luce è piena, dentro ogni voce. All'alba, ci coprivano gli occhi con un velo di cenere. Non potevamo sentire il passaggio dei nostri bambini sull'orlo del mondo. Vieni, vicino al mio petto, più stretto. Nascere, piccolo, è cadere nel tempo. Sei dentro, minuscola creatura. Quale posto troverai nel mondo? Non ti voglio raccontare. Le braccia il viso bianco di tua madre, un vuoto di sogni che dovrai colmare. Preparo nel frattempo la tua soffice tana, il pane, gli abiti di lana. Fuori sarà diverso. Fuori sarai una piccola goccia sull'orlo di un milione di foglie e l'eco della notte ti dovrà contenere.